9 in punto, la versione di Oscar. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, buon 26 di aprile, auguri a tutti Marcellino, visto che questo è il nome del calendario liturgico del giorno. Oggi una puntata nella quale continueranno le testimonianze della nostra iniziativa Disperati Mai Chiocciola Radio24.it. Avete sentito dalle parole del direttore Fabio Tamburini l'annuncio della giornata straordinaria di programmazione che faremo domani, tutta la programmazione della giornata dedicata alle vostre testimonianze, a coloro, sono molti, che si rendono disponibili per aiuti, perché la politica apra le orecchie e faccia qualche cosa. Per favore, non faccia le seguenti due cose: desista dal credere di poter dire alle imprese che i pagamenti dei suoi debiti commerciali sono attinti, come invece il governo ha disposto, dallo stesso fondo del bilancio col quale bisogna restituire i crediti IVA avanzati dalle imprese, come il Sole 24 Ore sta documentando in questi giorni, perché questa è una presa per i fondelli e non c'era bisogno dei tecnici per farla, prima cosa. Seconda cosa, ieri sera, anzi stanotte, alla TG3 del 24 ero ospite e mi è capitato di essere gentilmente invitato e avevo come interlocutore, tra gli altri, oltre a Stefano Feltri, ottimo collega del Fatto, c'era il sottosegretario all'economia De Vincenti, e commentando i dati disastrosi del resi noti ieri della retribuzione degli italiani rispetto a base 100, a parità di potere d'acquisto, retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti italiane, quelle tedesche sono un terzo in più, quelle britanniche quasi il 45% in più, mi è capitato di dire che il motivo per il quale in Italia siamo al record delle retribuzioni lorde o del costo aziendale per impresa, per dipendente, rispetto al netto che poi gli si dà in busta paga, è perché la differenza lo fa tutto lo Stato. E il segretario De Vincenti, il sottosegretario allo sviluppo economico, mi ha fermato, anzi mi ha contraddetto, io non ho potuto replicargli dicendo: non è vero, perché in Francia e in Germania la pretesa fiscale è superiore alla nostra. Allora, ci tengo a dire che non serve un paese nel quale diamo sempre confusione ai telespettatori e ai radioascoltatori sui numeri, cioè un paese nel quale ognuno si alza e dice che la cifra dell'altro non è vero, è un paese nel quale io per primo, come ascoltatore, non dico poi come giornalista, rimango sempre più perplesso, perché è un paese nel quale, senza una numerica condivisa, ogni opinione si fonda sulla libertà di cazzate, non sulla libertà di opinione. Allora, ci tengo a dire, poiché gli ascoltatori, i telespettatori del TG3 non hanno potuto sentire poi la mia replica, che qui non è questione di punti di vista, e quindi il sottosegretario De Vincenti sbagliava a farmi questa precisazione. Il cuneo fiscale italiano, che nel 2011 è arrivato alla soglia record mai raggiunta nel nostro paese del 47,5% rispetto al lordo della retribuzione del lavoratore, e che in ulteriore crescita per via degli aggravi contributivi previsti dalla riforma del mercato del lavoro sulle forme del mercato d'ingresso diverso dal contratto a tempo indeterminato proposta sempre dall'attuale governo, è vero che è superato di 1,4 punti da quello francese e di 1,6 da quelli tedeschi attuali, ma la differenza, che non può essere eliminata con un tratto di penna da nessun sottosegretario di nessun governo, sia esso politico o tecnico, è che per l'impresa che deve pagare il lordo e che deve pagare i dipendenti e deve fare i margini, per l'impresa italiana ci sono, rispetto alle pari grado tedesche, come ripetiamo incessantemente da anni, almeno 20 punti in più di pressione fiscale da pagare sullo stesso reddito lordo d'impresa rispetto a una pari grado tedesca, e circa 15 punti in più rispetto a una pari grado francese. Questo è quello che, sommato al cuneo contributivo per dipendente, fa la differenza, e da questo punto di vista i numeri che ho dato sono incontestabili, a meno che la politica, destra, sinistra lo facevano prima, adesso lo fanno anche i tecnici, pretenda sempre di dire che i numeri della rapina fiscale italiana a fronte di quello che lo Stato ci dà sono infondati perché gli altri hanno sempre una pressione fiscale superiore alla nostra. Non è così, e questa è una delle ragioni, sia etiche, il fatto di spacciare palle per numeri, sia politiche, non affrontare questo questo grande problema. L'enorme pretesa fiscale con la quale aggiuntivamente stiamo tentando di affrontare il debito pubblico, che mette ulteriormente in ginocchio l'Italia legale, che tenta di offrire lavoro e tenta di esercitare il proprio lavoro o di farlo onestissimamente come lavoratori dipendenti, perché è su questa che lo Stato, con i governi precedentemente in carica, ma anche con questo, commettono l'errore di volere mettere sulle spalle il risanamento e la rimessa in regola di tutti i conti di ciò che la politica non ha fatto negli anni precedenti. Lo dico non per testardaggine personale, perché figuratevi, non mi importa nulla, io sono un topolino, ma il problema è che questa faccenda di non dire mai le cose come stanno sui numeri della crisi italiana è in larghissima ragione uno dei motivi per i quali poi abbiamo lanciato questa iniziativa e siamo travolti da migliaia di lettere, perché le imprese piccole, gli artigiani, commercianti, professionisti, partite IVA, che non sono tutte le imprese italiane, ci tengo sempre a dirlo, ci sono per fortuna grandi e medie imprese che continuano ad andare benissimo. Ieri l'ENI ha firmato uno straordinario impegno con Rosneft in Russia che rilancia la sua attività internazionale, però lasciatemi dire che la disattenzione sugli effetti del tessuto di imprese e del lavoro italiano di questa impostazione sbagliata, e che continua a non valere ammettere la verità di numeri incontestabili dell'eccesso di pretesa fiscale, che uccide quindi la possibilità di dare lavoro e intacca oramai non più solo nel reddito disponibile, cioè nel conto economico di famiglie e imprese, ma intacca nel patrimonio di famiglie e imprese al quarto anno di crisi, e mentre le banche non possono dare una mano. Questa è la realtà di una condizione di gravità molto più seria che in tutti gli altri anni che abbiamo alle spalle, e quindi secondo me questa realtà andrebbe affrontata con qualche cosa di più del pur ottimo patto ieri fra italo-tedesco, firmato da Monti e da una Merkel sempre più preoccupata, perché tra un anno si vota in Germania, la crescita tedesca quest'anno è solo dello 0,7% dopo il 3,4% dell'anno scorso, perché se vince Olanda eccetera eccetera, ma questo non voglio ripetermi. Dico solo che la puntata di oggi personalmente la dedico a un altro imprenditore che è scomparso. E questo imprenditore non è scomparso perché per la crisi o per la paura di non farcela o per le cartelle erariali o perché lo Stato non lo pagava o perché i clienti privati non lo pagavano. Questo imprenditore è morto sul campo ed è per questo che voglio ricordarlo. Ed era un imprenditore che andava benissimo, la sua impresa, la OMSO, è uno dei gioielli dell'imprenditoria italiana. Ringrazio Pino Michele che mi ha segnalato il suo caso. Questo imprenditore si chiamava Milo Campioli, era di Reggio Emilia, aveva 39 anni, stava facendo un lavoro strepitoso di crescita nei mercati asiatici con la sua azienda, ed è morto in Cina in un incidente stradale. È morto sul campo, e grazie alla memoria e all'impegno dei tanti Milo Campioli che lo Stato dovrebbe cambiare marcia, che la politica e i tecnici dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza, che tutti noi italiani, qualunque sia la nostra collocazione nel mondo del lavoro, la nostra età, le nostre simpatie politiche, le nostre scuole di appartenenza culturale, dovremmo, per questa Italia che è l'Italia dei nostri padri, quella che si è rimessa in piedi dopo la guerra, sentire tutti i giorni l'orgoglio e anche il coraggio e l'umiltà di mettersi insieme, senza pretendere di essere chissà quali depositari di verità, per dire: c'è un'Italia e c'è sempre stata e ci sarà, per fortuna, malgrado la sventura di una politica che non sa guardarla negli occhi, un'Italia capace di darci onore di stare con la schiena dritta nel mondo, sui mercati, e per questo c'è la possibilità di impiegare tanta gente che non c'ha lavoro e tanti giovani che abbiamo rapinato. La mia generazione consegna un bilancio di cui io mi vergogno pensando a quella della generazione dei miei padri. Punto per quello che riguarda la nostra campagna quotidiana, perché oggi abbiamo una puntata, in realtà, con un ospite straordinario. Prendiamo un po' di un respiro profondo rispetto ai temi in cui questi giorni ci occupiamo sempre, cioè questi degli imprese e degli piccoli imprenditori che sono lasciati soli di fronte ai loro guai, perché oggi, ve l'ho annunciato, abbiamo ospite uno straordinario testimone dell'Italia, un giornalista che è un maestro per me, che scrive dei libri fantastici. Il libro di cui stiamo parlando oggi è appena uscito, si chiama Tipi Sinistri, per la Rizzoli. Tipi Sinistri perché l'autore dice: prendo una specie di pausa rispetto ai tanti libri che ha scritto in questi anni, di cui abbiamo sempre parlato da questi microfoni avendolo ospite, come Sangue dei Vinti, I Gendarmi della Memoria, Il Revisionista, I Cari Estinti, I Vinti Non Dimenticano, cioè i libri meravigliosi che l'ospite di oggi, Giampaolo Pansa, ha dedicato da un po' di anni a questa parte alla ricostruzione della guerra civile italiana, quella attraverso cui è passata la generazione di mio padre. E rispetto a questi, Giampaolo Pansa è tornato a darci un libro che è uno spaccato di quello che in tanti anni ha visto lui come testimone, giornalista della politica italiana, e mette in fila tipi sinistri lo chiama per questo, i protagonisti di coloro che probabilmente potrebbero rivincere le elezioni dopo il governo tecnico. Questa è la fine della sua prefazione e dice: proprio per questo quindi io ve li ripresento, vi do la mia opinione, l'opinione di Giampaolo Pansa, dividendoli in alcune categorie. Quali sono le categorie? E poi naturalmente ve lo presento, lo ringrazio e lascio a lui con alcune domande il commento per tutta l'ora. E le categorie in cui li divide, e dentro ci sono politici, ci sono intellettuali, ci sono giornalisti, ci sono editori, le categorie sono queste: ci sono gli invincibili, in cui Pansa mette Napolitano e mette l'ingegner Carlo De Benedetti, l'editore di Repubblica. Secondo me il capitolo su Carlo De Benedetti è uno dei più godibili da leggere, perché il racconto di come quando c'è la sorpresa dell'esplosione delle tangenti nel 93 che riguardano l'Olivetti, quando l'ingegner De Benedetti aveva detto mai pagato tangenti, e si ricostruisce questa fantastica intervista che Pansa va a fare al suo editore dicendogli devi essere pronto a levarti dai piedi, e l'ingegner De Benedetti accetta l'intervista sia pur digrignando i denti, e poi gli dice: ma non sei mai visto che un dipendente dice al suo azionista levati dai piedi? È una cosa da storia del giornalismo, se mi permettete, è anche un pezzo di storia italiana. Poi la seconda categoria è quella degli sconfitti, in cui oltre a Occhetto c'è Prodi e Fausto Bertinotti. Fausto Bertinotti, il parolaio rosso, noi dobbiamo a Giampaolo Pansa di questi icastici acronimi fulminei con cui lui dà delle definizioni che poi restano appiccicate ai leader politici. Il parolaio rosso è Bertinotti, ricordate da Lemoni, l'ha sempre inventato lui. Poi la terza categoria sono i superstiti, e qui io ho qualche domanda da fare, perché il primo superstite è Massimo D'Alema. Fine del capitolo su D'Alema. Probabilmente D'Alema tornerà a fare qualche cosa, e quindi questa è la previsione che Pansa non si sente di escludere. Poi c'è il leader mancato, Piero Fassino, e qui è una sorpresa per me, i superstiti, perché io l'avrei dato per sconfitto, con tutto che è il sindaco della mia città e io voglio bene a Piero Fassino. Poi c'è Walter Veltroni, il perdente Giulivo, e Pierluigi Bersani, quel sigaro pendolo, sul quale non si spendono parole molto incoraggianti. Altra categoria, gli isterici. Antonio Di Pietro, soprannominato Tonino il Cannibale, Rosi Bindi, lo sceriffo Rosi, Franceschini, detto anche il Trinariciuto Bianco, Concita De Gregorio, l'ex direttore dell'Unità, Girotondina e Minogonna, in Minigonna, e Susanna Camusso, che altra mia grande sorpresa, la segretaria della CGIL, che Giampaolo Pansa cataloga tra gli isterici, mentre la mia opinione è quella che ha messo in fila il suo sindacato, il PD, tutti gli altri sindacati e persino il governo tecnico sulla riforma del lavoro, e quindi mi sembra una che altro che la smemorata del passato terroristico nelle fabbriche isterica, mi sembra una che di politica ci macina abbastanza, ma sentiremo Pansa. Poi c'è ancora altre categorie, gli apprendisti, Nichi Vendola, Nichi il Doppio, il sindaco di Napoli, Gigino o Trombone, cioè Luigi De Magistris, Renzi, il sindaco di Firenze, poi Maurizio Landini, il capo della FIOM, meccanico di montagna soprannominato. Infine gli indignati, e qui iniziano i giornalisti, cioè Enrico Mentana, Lucia Annunziata, Corradino Mineo, il direttore del TG3 Bianca Berlinguer, e quello di Sky Sara Varetto. Un meraviglioso cameo su questo di Emilio Giannelli, il grande vignettaro, diciamo erede di Forattini per così dire. E infine le due ultime categorie, i bolliti, in cui c'è l'altra perla imperdibile, il ritratto di Eugenio Scalfari, Io e Barbapapà è il capitolo, poi Emanuele Macaluso che ha appena chiuso il suo Riformista, e il ruggito del topo, e questo è il capitolo dedicato a Giuliano Amato. Infine un capitolo che sono i dispersi, i rinati, gli inguaiati. Di tutti questi, il capitolo che mi è piaciuto di più, i capitoli che sono piaciuti di più sono due, quelli dedicati alle Italie di Giuliano Ferrara, descritto come un meraviglioso orfano, di Amendola prima, di Craxi poi, di Berlusconi oggi, e si è perso alla fine del capitolo Pansa perché lo dava come nemico di Monti. Nel frattempo ha già sposato anche Monti, Giuliano Ferrara, quindi supera anche quello che ha scritto Pansa, che pure ha chiuso il libro poche settimane fa. E poi il capitolo dedicato a Giulio Tremonti, l'alieno, perché la descrizione del conflitto tra Tremonti e Berlusconi fatta dalla penna di Giampaolo Pansa è veramente qualche cosa che va al cuore dell'irriducibile diversità che Giulio Tremonti, con tutti i suoi difetti, aveva rispetto agli incomparabilmente superiori difetti della compagnia di giro in cui Berlusconi lo aveva soldato, senza aver mai capito bene che cosa avesse in testa il socialista Tremonti del collegio Ghisleri di Pavia. Detto tutto questo, è con noi Giampaolo Pansa, e io troppo parlai. Buongiorno e grazie di questo nuovo regalo che ci fa Pansa a questi microfoni. Ma no, grazie a lei Giannino e grazie a Radio 24 e ai suoi ascoltatori, lei mi ha fatto un regalo servitoso. Ma a questo punto io potrei salutare, ringraziare e andarmene. No, perché, assolutamente perché no. Perché lei ha fatto una descrizione, devo parlare di lei o del tubo? Decide lei. Lei ha fatto una descrizione dei miei tipi sinistri che persino mi stava facendo ridere. Pure l'ho scritto, l'ho titolato, poi l'ho riscritto, a delle grisendi me l'ha corretto e dopodiché l'ho riscritto un'altra volta, ma tutto abbastanza in fretta perché questo libro ce l'avevo dentro. E la sua descrizione è incomparabile. Non è vero, non è vero, cominciamo. Però per i miei prossimi libri. Non è vero. Ah, beh, se vuole io faccio il modesto, semplicemente compilatore dell'indice dei nomi, sarebbe per me figurare in uno dei suoi libri come compilatore, ma basta con le adulazioni. Le chiedo, fine del capitolo su Napolitano, lei dice, guardandosi un po' anche allo specchio, perché c'è anche un po' di narcisismo in questo, per fortuna che l'Italia è un paese per vecchi. Quindi il buon vecchio Napolitano, secondo lei, di cui lei ha molta fiducia, che io condivido, potrebbe non finire il suo ruolo politico quando finisce il Quirinale? Ma guardi, questo non so dirlo, naturalmente il mio istinto di essere umano, che ha simpatia per un altro, dovrei dir di sì, però Napolitano è un signore molto agé, in là negli anni, però può fare molte cose, ma senza incarichi di molto pesanti, gravosi, come quello del Presidente della Repubblica, ma anche altri incarichi di questo genere. Però sa, Napolitano, quando io ho scritto per fortuna questo è un paese per vecchi, perché io sento troppa retorica giovanilistica in giro. E i giovani italiani sono troppo coccolati, sono troppo protetti, sono troppo portati sull'altare, dovrebbero essere bastonati, dovrebbero essere sottoposti a delle scuole severe, e si dovrebbe spiegare che se non sa parlare l'inglese e poi parlare anche il cinese e poi aver fatto una serie di studi e poi darci dentro per 12-13 ore al giorno e poi dopo cambiare lavoro 4-5 volte nel giro di 10 anni, se non gli si insegna tutto questo, noi creiamo una generazione di sbandati, è una generazione che rischia di finire male. Ricordo, visto che lei ha citato il Riformista, ricordo che sul Riformista avevo fatto un mio bestiario che era intitolato in questo modo: che cosa farai da grande, punto di domanda, risposta, il rapinatore. Senta, però lei è davvero convinto che siccome la fine della prefazione è quella di dire questi signori vincono di nuovo, probabilmente appaiono come coloro che potrebbero vincere di nuovo, ergo occupiamocene di questi di sinistra, della sinistra italiana composita, eterogenea, fatta di tipi ricorrenti, in realtà poi allineandone la galleria da Veltroni a D'Alema, da Bersani a Prodi eccetera eccetera, è la storia di una lotta a coltello assolutamente in cui non ha fatto prigionieri il centrosinistra al suo interno e con tutti i suoi leader. Perché dovrebbero rivincere? Ma dovrebbero rivincere perché l'altro competitore, anzi il loro competitore, ossia il centrodestra, sta alla canna del gas. Mia nonna, che era cattolica e anche abbastanza credente fino ad un certo punto, diceva, avrebbe detto ai piedi di Cristo. Ma qui il centrodestra aveva un sacco di voti, perché nel momento in cui Berlusconi se n'è andato, quindi autunno, novembre del 2011, godeva ancora di un'elezione trionfale, la più trionfale possibile per lui, quella dell'elezione del 2008. Ha sprecato tutto, il PDL, sigla quasi impronunciabile, è imploso, sono nati clan, è successo come con la Jugoslavia di Tito: il giorno che è morto Tito la Jugoslavia si è disgregata ed è tornata ad essere la Balcania rissosa in guerra permanente contro se stessa, che era stata prima dell'avvento del grande maresciallo e grande comunista, per carità, feroce, che aveva fatto strage di tutti quanti gli oppositori. E la stessa cosa è successa al centrodestra. C'è una sola riserva, questa mia previsione, che poi spiega perché ho scritto un libro sui tipi sinistri e non sui tipi destri, è che questa avventura del governo Monti, che io confesso guardo con molta simpatia e con molta speranza, sono stracaricato di tasse, dovrò impiegare una parte importante dei miei risparmi per pagarle, però capisco che perlomeno il coraggio di dirci una cosa che molti dei tipi sinistri o degli altri politici di tutta la baracca non hanno il coraggio di dire che avremo 4-5 anni, e che lei per esempio dice, Giannino, io la sento molte volte e a volte mi fa venire il freddo alla schiena le cose che lei dice, però le dice con una competenza e con una chiarezza tale che non posso che accettarle. Avremo 4-5 anni e speriamo non di più, di vita durissima, e c'è da sperare che tutto il sistema italiano, non soltanto quello del politico, ma quello sociale, delle famiglie, delle imprese naturalmente, delle scuole, dei giornali, tenga, perché se si comincia a sfasciarsi, qui altro che la Grecia, finiamo, come avrebbe detto la mia mitica nonna, come la Balcania. Quando noi, i suoi nipoti, i ragazzini, facevamo del casino in casa, mia nonna interveniva menandoci tutti, a cominciare da me che ero il più grande, diceva basta con questa Balcania. Se l'Italia si dovesse ridurre a quello, qui ci sarebbe davvero da spararsi, oppure da chiedere la cittadinanza, non mi ricordo dove, perché vedo che un sacco di paesi sono in crisi. Senta, una delle ragioni per le quali la storia ricostruita di questa seconda Repubblica, di come si esce dalla prima e poi nella seconda, di questa terza che è già cominciata, sono d'accordo anche su questo con lei, è una storia di accoltellamenti assolutamente ininterrotti, di leadership correnti, famiglie culturali che dicono di mettersi insieme, poi si fanno lo sgambetto e Rifondazione che butta giù Prodi due volte, è una legislatura in cui si comincia con Prodi, poi in mezzo c'è D'Alema, poi si va Giuliano Amato e alla fine il candidato è un altro ancora, cioè Rutelli, in una sola legislatura. Non è che una delle ragioni quintessenziali di tutto questo, oltre alla storia di divisione della sinistra che abbiamo dalla fine dell'Ottocento in poi, il socialismo massimalista rispetto a quello riformista, Livorno e la storia del PC, non è per caso che questo bel gruppone editoriale a cui lei dedica due capitoli, perché c'è quello dell'ingegnere De Benedetti e c'è quello di Scalfari, ci sono in realtà poi tanti pezzi di storie di persone favolose che hanno fatto la storia di questo gruppo editoriale di Repubblica e dell'Espresso. Io ricordo Claudio Rinaldi, con cui lei è stata all'Espresso. Claudio Rinaldi è una delle persone che mi manca di più, mi manca umanamente, anche se poi era appariva una belva irascibile per il suo caratteraccio, ma per me è un esempio anche per come ha affrontato il male, tanto per dire una cosa, per tanti anni. Allora, non è che per caso questo gruppone editoriale, la coppiata De Benedetti Scalfari, è quintessenzialmente una delle ragioni per cui alla fine non è questa una sinistra né di governo né l'area massimalista che fa i suoi congressi e si decide i leader, ma se li vede candidati e uccisi nel giro di pochi mesi perché è Repubblica a menare le danze? Ma guardi, io devo dirle di no, non ci credo, ma non ci credo perché forse molti ascoltatori della sua trasmissione di Radio 24 non lo sanno, perché poi io conto come il due di picche sulla scena che voi descrivete tutti i giorni, ma io ho lavorato per questo gruppo 31 anni, perché sono stato 14 anni a Repubblica, un anno come inviato e 13 come uno dei due vice direttori, poi mi sono fatto 17 anni di Espresso, perché avevo seguito Rinaldi che andava a dirigerlo dopo essersi dimesso da Panorama per non lavorare per il mitico Cavalier Berlusconi. Sono stato lì con altri direttori, poi per tutto un complesso di cose, praticamente non voglio dire di essere stato spinto fuori tanto da Repubblica che dall'Espresso, perché collaboravo anche al mitico giornale di Ezio Mauro, da noi chiamato quando era un giovane cronista Topolino, perché era molto attivo, e sono poi andato a lavorare in altre testate minori. Penso di averlo conosciuto, io non credo che siano così importanti, sono molto importanti dal punto di vista delle loro vendite, della orrenda parola fidelizzazione dei lettori. Dico sempre che Repubblica è prigioniera di 30.000 professoresse assatanate contro Berlusconi che hanno fatto poi anche la fortuna di Repubblica, ma non è così, perché l'ingegnere è certo un signore molto potente, ha creato un gruppo editoriale straordinario, comunque lo si giudichi, oggi a me sembra molto una caserma, mentre prima era guidato da un signore come Scalfari, che prima di imboccare una curva, non dico discendente, può anche essere ascendente, però quella che conosciamo, le sue prediche, quello che dice, sosteneva che la fortuna di un giornale, anche di un gruppo editoriale, è quella di essere libertino, cioè di non essere una caserma. Oggi a me sembra una caserma tutto il gruppazzo, come lo dicevamo, come si diceva noi nei corridoi della redazione. Non credo sia così importante. La sinistra italiana è ridotta come ridotta perché viene da prima di tutto, nelle sue varie fazioni, una cosa che mi piacerebbe dire e spero di dirla con una chiarezza, non dico sua identica alla sua, caro Giannino, ma perché viene da un ceppo che è quello del vecchio comunismo, vecchio ce n'è ancora, alcuni paesi lo sono, ma del comunismo che era andato al potere in Russia con la rivoluzione del 17, che ha sempre avuto sfiducia nella politica. Allora, non si può essere figli di un padre che pensa che la politica delle buone democrazie, quella che prevede la selezione dei migliori, quella che prevede i confronti con gli elettori, quella che prevede su di superare una serie di prove, senza, se non le superi poi vai a casa. Il comunismo non ha mai, è sempre stato lontano 10.000 chilometri da una situazione politica e sociale come quella delle grandi democrazie. Che infatti, se noi guardiamo, se io riguardo l'elenco o risento quell'elenco letto splendidamente da lei, i tipi sinistri, ma quanti vengono da quella esperienza? Parecchi. Tanti, ma tanti. E poi ci sono anche i personaggi, perché poi esistono solo, erano una cinquantina, 45, 46 personaggi descritti dal Panza in tipi sinistri, ce ne sono poi moltissimi altri, che sono persino una zavorra per se stessi, perché hanno una cultura vecchia, perché tutto fanno discendere tutto dalla fedeltà a questa presunta rivoluzione o palingenesi umana, per cui senza la sinistra tutto è sporco, brutto, cattivo, pieno di ladri, pieno di delitti, pieno di assassini, la destra fa schifo, il centrodestra ancora di più, è l'unica modo, l'unico abito elegante, intelligente, che fa fine anche se non impegna mai, è quello che indossano loro. Vedi, ci fossero qua adesso Rosy Bindi o Dario Franceschini, direbbero che si vede che lei adesso scrive ed è pagato per un giornale di destra, perché questa sarebbe il tipo di reazione. Oggi devo dire che tra gli ascoltatori non ci sono fino a questo momento una novità e sono molto contento, reazione di questo tipo. Devo segnalarla prima di andare in pubblicità invece due cose. Primo, c'è una rivolta in corso di nostri ascoltatori pavesi, perché da ex frequentatori del Ghisleri di Pavia ci segnalano, e temo che abbiano ragione, Panza, temo che abbiano ragione, che Tremonti, questo è un errore da correggere nel libro, non è del Ghisleri perché ha frequentato il Fraccaro, l'altro collegio che i ghisleriani naturalmente a Pavia ci tengono a dire quello di serie B. Questa cosa in realtà costa, anche se non me ne sono mai occupato di verificare, anche a me, però da Pavia gli ascoltatori le dicono viva Panza, però non è un ghisleriano, non si è mai detto. Seconda cosa, adesso andiamo in pubblicità, guardate che dovete leggere questo libro perché c'è una incredibile, per me è stata una sorpresa assoluta, dichiarazione di passione erotica di Panza, che non so la Adele Grisendi come abbia preso, per Lucia Annunziata, ma è una cosa di pelle, di carne, cioè non avrei mai pensato che Giampaolo Panza prova queste vibrazioni ormonali per Lucia Annunziata. Guardate, ci sono delle pagine di fronte alle quali io fosse stata in Adele avrei detto adesso te le straccio. Pubblicità. Ed eccoci qui tornati con Giampaolo Panza, 4 flash di stampa europea intanto per confermare perché i Doors non li possiamo levare. Avete sentito le parole del giornale radio di Draghi che dice no al rientro di finanza pubblica fatto con le tasse, è ovvio che si riferisse al governo italiano in carica, le ha pronunciate in italiano, questa è una risposta agli ascoltatori che dicono che io attacco solo il governo Monti mentre prima no, avete dimenticato con quanta durezza mi sono beccato per mesi migliaia di insulti dagli attori del centrodestra perché dicevo che il governo precedente doveva andare a casa, ma resta il fatto che la linea di questo governo non va bene, lo dice anche il presidente della BCE. Su questo vi segnalo alcune cose, leggete per capire meglio quale sia la posizione di Hollande su Les Echos, l'intervista di Jean-Marc Ayrault, che è il, diciamo così, il capo economista oltre che il portavoce del Partito Socialista Francese di oggi, che vi puntualizzerà meglio che cosa aspettarsi da Hollande eletto e perché secondo me andiamo come Italia in una fascia poi entro le due settimane successive tra 4,50 e 4,80 di spread, questa è la mia previsione, spero di sbagliare ovviamente. Dopodiché leggete invece su Herdantrieb, se leggete il tedesco, che è uno delle fonti giornalistiche specialista di economia e finanza migliore secondo me in Germania, è la column di Mark Scheritz, che spesso vi segnalo, che spiega ai tedeschi preoccupati perché Draghi e Hollande hanno in mente due cose diverse, dicono tutte e due patto per la crescita, ma spiega agli lettori tedeschi non commettete l'errore di pensare che Draghi voglia le cose di di Hollande. Hollande vuole più spesa pubblica, più assunzioni pubbliche e più bassa l'età pensionabile. Draghi vuole il contrario e sta parlando agli italiani perché facciano il contrario. Condivido, la penso come Mark Schiritz. Dopodiché in Germania la cosa singolare è che la preoccupazione tedesca per la crescita più, molto più bassa quest'anno rispetto al pasto si vede anche da cose politiche che la stampa italiana non segnala. Per esempio, ieri in Germania Angela Merkel, che è della CDU, insieme al capo della CSU bavarese, hanno fatto un accordo politico per reintrodurre il salario minimo in Germania. In realtà è un segnale politico perché i liberali, l'FDP, che fa parte di questo governo, è sempre stata contraria, però fa capire che si iniziano a porre le basi di quello che, di qui a un anno prossimo, alle prossime politiche, potrebbe essere un altro governo di grande coalizione. Quarto, con i socialisti, ovviamente. Quarto flash, Greco, la somma di PASOK e di Nea Demokratia, cioè dei socialisti e dei moderati, è sotto il 50%, ma è parecchio sotto il 50%. Per essere chiari, nei sondaggi di oggi sono al 35,5%. Questo renderà molto complicato fare un qualunque governo in Grecia. E infine, sempre dalla Grecia, la Reuters ha battuto un servizio ieri sera nel cui si dice che le prenotazioni turistiche sono sotto del 5% e la previsione è che potrebbero andare fino a meno 30% nell'estate, perché il meno 5% è in questi giorni ancora primaverili, e a mancare all'appello sono i tedeschi. I tedeschi non vanno in Grecia, era la prima componente del turismo in Grecia, perché hanno paura del fatto che i greci, identificandoli come tedeschi, gli mettano le mano addosso, così scrive la Reuters, e questo è il motivo per cui non levare i dorsi. Allora, torniamo da Giampaolo Pansa e facciamoci spiegare se è un caso, una necessità che alla fine, verso D'Alema, la conclusione del ritratto è che potrebbe essere quello che con più probabilità il leader che potrebbe tornare sulla scena, non a fare solo la Fondazione Italiana Europea. E poi c'è questa cosa per me sorprendente di Lucia Annunziata, non a caso la collega giornalista più d'Alemiana, che ti sconvolge gli ormoni. Ma allora, dunque, prima di tutto mi dispiace di aver fatto questo errore su Tremonti indicandolo come allievo del Ghiglieri, ma avevo sempre saputo che fosse così, non ho pensato nemmeno di controllarlo, perché a volte anche i giornalisti con i capelli bianchi abituati ai direttori che ti stangavano perché ritenevano che una rettifica fosse peggiore che una querela, di solito mi ha sempre spinto a non fare errori di questo tipo, ma se però lo dicono questi, indicando anche un altro collegio, che è un altro collegio molto noto, che io poi non penso sia di serie B, ma ad ogni modo il collegio Fraccaro, mi scuso, adesso chiamerò Tremonti, gli dirò ho fatto una gaffe, eccetera eccetera. Ma invece per quel che riguarda Lucia Annunziata, ma perché devo spiegare? Ma senti, io sono un signore ormai anziano, 76 anni. Quei pochi ormoni che mi sono rimasti si indirizzano naturalmente prima di tutto da Adele Grisendi, perché ecco, ristabiliamo la priorità. Ma viviamo insieme da più di 20 anni, esisto perché c'è lei, perché è una ragazza, una signora meravigliosa, qualche anno meno, anzi 12 anni meno di me, ma non è più una ragazzina neppure lei. Viviamo, grazie a Dio, in una simbiosi perfetta. Adele è una splendida romanziera, poi scrive pure una parte dei miei libri, mi ha corretto come una professoressa vecchio stampo ogni pagina. Però questo capitolo d'amore per l'Annunziata, ma se mi piace Lucia Annunziata, ma chi mi deve piacere? La Rosi Bindi, ma siamo matti. Anzi, ho sentito una risatina ancora, in sottofondo. Ancora, con tutto il rispetto per i gusti sessuali degli esseri umani, che per me possono essere più diversi, non è che mi posso prendere una sbandata per De Magistris, per Gigino Trombone, no, ma, cioè, Lucia Annunziata, anzi devo dire che lei è stata molto, molto cortese, perché se n'è accorta subito, o perché qualcuno gliel'ha segnalato, perché si è comprato tipi sinistri, come io mi auguro, è andata a vedere cosa diceva, mi ha mandato un sms bellissimo, anzi io l'ho subito chiamata per rinnovargli questa sensazione che lei aveva avuto. Ma non è possibile, ma perché? Ma esistono soltanto le star come Belen, non lo so, oppure le signorine di 18-19 anni? No, in realtà qui c'è una qualcosa di dalemiano, perché ti ripeto, non mi stai rispondendo a D'Alema, cioè l'uomo il cui carattere è da sempre il peggior nemico di se stesso. Come fai a prevedere che D'Alema possa tornare a essere il leader? Dunque, io penso sempre che una regola che vale per i maschi, a cominciare da lei, caro Giannino, è che le persone di carattere hanno quasi sempre un brutto carattere, ma io vengo considerato un rotto in culo pazzesco, sono sempre pronto a tirare i sassi nei vetri, penso Io mi considero un ragazzo con i capelli bianchi, molto buono, conciliante, sempre pronto a sorridere alle persone che vogliono sorridere a me, però vengo considerato un pessimo soggetto. L'Annunziata è fatta così, che cosa dobbiamo fare? È fatta in questo modo. E da questo punto di vista, io sono contento che lei abbia notato questo. Vuol dire che lei è un lettore intelligente, Giannino, vuol dire che anche lei, io non so quali sono le cose. No, secondo me lei si annoiava così tanto a scrivere queste altre, questo altro, perché poi devo dire guardate che sono 400 pagine di roba, non è che è un librino fatto così con rimasugli. Lei a un certo punto si annoiava così tanto che ha avuto questo solluco, perché dover ogni volta rispiegare Veltroni, il riformista americano che poi diventa capo della sinistra, perde in tutte le cose, ma è sempre inossidabilmente lì. Cioè, io Veltroni lo dico con rispetto per l'uomo, eccetera, eccetera, però insomma, non so più che parte affidargli. Potremmo, probabilmente lo riscopriremo alla testa del SEL domani, al posto di Vendola, non lo so. Sono pronto a vederla di tutti i colori. E allora, annoiandosi, a un certo punto, secondo me, Panza ha sentito la necessità di metterci questo po' di pepe con questo ritratto del tutto imprevedibile di una Annunziata che ricorda una vecchia chincagliera. E in questa immagine della chincagliera con le gonne stretta e il seno prorompente, ho faticato un po', devo dire, siccome voglio bene a Lucia, a vedere i tratti della Sarnese che conosco io. Ma naturalmente io sono oramai desessualizzato, perché penso solo a mia moglie Margherita, che invece mi fa un po' girare la testa, e allora è ovvio che io non posso provare queste cose qua. E mentre ripartono i nostri Doors, la domanda che faccio a Panza è: ma lei non mi sottovaluta un po' la Camusso, che in definitiva in pochi mesi qui col governo dei tecnici si è riallineata il partito, perché Bersani alla fine è stato travolto dalla posizione della CGIL, la FIOM, che con la Camusso così dura e tosta non è più alla testa isolata di una parte di sinistra antagonista, la CGIL l'ha riassorbita e ha rimesso in riga il governo, tutti gli altri due sindacati e il partitone rosso, il PD. Mica poco, lei non è che la sottovaluta un po'? No, guarda, ma dunque, tanto per cominciare, questo è un libro anche umorale, perché non è un libro di storia. È anche un libro su me stesso, i miei ricordi. Io non posso soffrire la Camusso, c'ha quest'aria da maestra bizzosa, poi quando c'ha questo cappellino rosso messo al contrario per imitare i giovani, per far dire guardate che ragazza che è la segretaria della mitica CGIL, non mi piace. Poi non mi è piaciuto il mio fastidio, come raccontato anche in questo capitolo, dovuto anche quando se l'è presa con Saccone, dicendo lei è il peggior ministro del lavoro della storia italiana del dopoguerra, ma soprattutto per come contraddice le persone che non ragionano come lei. Mi infastidisce. Confesso che uno dei segretari della CGIL che ho amato molto era Allama, e quando l'ho intervistato tantissimi anni fa per la stampa di Alberto Ronchey, io avevo 34-35 anni, feci una pagina sull'Ama, come la scrissi anche sugli altri segretari dei tre sindacati e anche sui tre segretari di allora, si chiamava FLM, dei metalmeccanici, e l'Ama mi consegnò un verbo che non ho più dimenticato, che non vale soltanto per l'attività sindacale: chi tratta vince. Allora, il giorno che la signora Camusso dimostrerà di sapersi adeguare a questa verità profonda, che è anche una verità di vita esistenziale, che toglie di mezzo le asperità, che evita le guerriglie verbali, che evita tutta la robaccia che può venire dopo, farò autocritica e nella 30ª edizione dei Tipi Sinistri cambierò questo capitolo. Senta, non ho capito invece, leggendo il capitolo dedicato al sindaco di Firenze, Renzi, se le sta simpatico o meno e che tipo di vaticinio fa sul suo futuro. Ma secondo me, dunque, allora io mi sono anche incontrato in TV con Renzi due sere fa, la trasmissione di Carelli, Rapporto Carelli su Sky, lui era collegato da Firenze, io stavo in studio qui a Roma. Poi c'erano dei giovanotti sparsi un po' dappertutto, ma guardi, io penso che Renzi, a me sta simpatico, quell'altra sera me l'è stato un po' di meno perché giobbava molto su questa storia dei giovani, una litania che io non posso più sopportare, perché amo molto i giovani, a cominciare dai miei nipoti, ormai mio figlio non è più un giovane, ma insomma ne vedo tanti bravi, anche gente che si dà da fare, che lavora, che accetta anche incarichi delicati, ma questa retorica giovanilistica mi ha veramente dato sulle palle, non lo posso sopporto più. Poi lui evidentemente non poteva far diversamente, mi ha detto che il mio libro non ha detto se gli piaceva o meno, e non ha nemmeno notato, mentre invece Lucia Annunziata, molto più sportiva, l'ha subito notato, che in fondo avevo trattato Renzi meglio di altri. E ha detto anzi che io sono diventato nichilista, cavolo. Questa è la cosa più vecchia e più stupefacente che il giovane Renzi potesse tirare addosso a un giornalista che aveva scritto un libro che sapeva essere sgradito ai suoi maggiori del partito nel quale... Io penso che lui non abbia molta strada davanti. Io penso che soprattutto nel suo partito gli accoltellamenti sono tali che non gli consentono di avere chissà quale futuro. Detto questo, noi leggeremo do un anno e mezzo dopo le 2013 il libro di Pansa, intervallato da altri due magari prima, su chi ha vinto e perché. Io non lo so se l'attuale offerta politica sia quella delle prossime elezioni, anzi vi dirò la verità, spero ardentemente e farò tutto il possibile perché non sia così, perché questa Italia del lavoro e dell'impresa ha diritto a un'offerta politica diversa dagli stanchi un po' rivoltanti centrodestra, centrosinistra, e del centro attuale in evoluzione non voglio parlare. Grazie a Giampaolo Pansa, leggete e comprate il suo libro Tipi Sinistri per Rizzoli. Per noi appuntamento a domani. 9 in punto, la versione di Oscar.